Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Appuntamento numero 222 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi in contatto con il Groove Mastery Studio da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Mio caro Francesco, ti voglio presentare un maestro italiano di musica e non solo, ma anche di vita per i giovani musicisti, un signore che ha scritto tante colonne sonore e che da un bel po' di tempo realizza le sue produzioni discografiche che noi potremmo definire fusion contemporanea. Sì, vado a introdurvi il maestro Franco Michalizzi. Buonasera Franco e bentornato al Soundcheck. Grazie, buonasera a tutti, sono felicissimo di essere qui. Come va qui l'atmosfera? Beh, siamo bene perché come vedi siamo circondati da bellissime pubblicazioni discografiche recenti ma anche del passato e oggi approfittiamo della tua presenza per raccontare che cos'è la fusion, genere musicale che ha i suoi esordi intorno alla metà degli anni 60 a opera di alcuni musicisti jazz che erano un po' stufi di quel tipo di suono, quello degli strumenti acustici, e quindi iniziarono a utilizzare per le loro produzioni discografiche il vecchio Rhodes Fender o il Wurlitzer oppure il suono del basso elettrico, quello delle chitarre. Non fu solo un cambiamento di suono che c'è stato sicuramente, ma anche di mentalità. No, dallo swing si è passati al funky, c'è stato questo salto, cioè che il funky in qualche modo era legato alla musica beat prima, cioè nasceva poi dalla musica rock dopo, ma visto in una chiave nera, cioè era la musica nera che si impossessava di questo tempo così binario che non era lo swing in quattro che conosciamo tutti, che è bellissimo per carità, è eterno, è un classico che non finirà mai, però si sentiva questa esigenza e devo dire che si è sentita la novità. Ovviamente cambiava anche un po' il modo di improvvisare, di suonare, gli arrangiamenti suonavano e anche proprio il suono del jazz doveva essere rinnovato perché oramai c'erano già le band rock and roll che utilizzavano gli strumenti elettrici e quindi per esempio un signore come Miles Davis è stato uno dei primi a realizzare degli album di jazz contemporaneo utilizzando quel tipo di suono, ma oggi ne parleremo con te e poi nella seconda parte insieme a Francesco daremo spazio proprio al suono e alla creatività e all'arte di questi grandi musicisti. Ma chi è Franco Michalizzi? Sì, allora, è un pianista e compositore romano. Fermi tutti, è un chitarrista. Pianista, nasce come chitarrista, poi diventa pianista e poi diventa allora andatore. Correggiamo la scheda così la prossima volta arriviamo preparati. No, questo per la pignoleria appunto. No? Bravo! Quindi chitarrista, pianista e compositore romano. Inizia a scrivere colonne sonore dagli anni 70 per film di genere come i western all'italiana, come il famoso, lo chiamavano Trinità, e i poliziotteschi italiani come la banda del Gobbo, Italia Man Armata. Bello, i poliziotteschi, non i polizieschi, poliziotteschi. Sì, che era, è un modo un po' dispregiativo ma popolare di dire, capito? Sì, in realtà inizialmente è un modo dispregiativo, però secondo me definisce ancora meglio. Guarda, disprezzatemi ma amatemi. Questo genere di film inizialmente viene snobbato, però viene recuperato intorno agli anni 2000 anche grazie al regista statunitense Quentin Tarantino, che utilizza anche le musiche del maestro Michalizzi nei suoi film, come nel film Grindhouse A prova di morte e anche nel più recente Django Unchained. Insieme a Tarantino anche molte band italiane stanno iniziando questo recupero delle sonorità proposte dal maestro, come ad esempio i Calibro 35. Il suo ultimo lavoro si chiama Onda Nuova e vede la collaborazione di grandi musicisti come Fabrizio Bosso, Jimmy Haslip, Jeff Lorber ed Eric Marental. Eh sì, musicisti che negli ultimi anni hanno registrato tantissime pubblicazioni discografiche puntando proprio su quella che noi abbiamo definito fusion, che oggi è un termine che potrebbe essere utilizzato per quasi tutta la musica che viene prodotta, perché i musicisti sono curiosi e quindi già il fatto di Ma c'è una grande contaminazione, ecco, ormai, di utilizzare parola elementi... brutta, io odio contaminazione, cioè, perché però è quella, sembra è quella negativa, giusta, è quella giusta. C'è una forse fusione più bello tutto sommato di generi che viaggiano uno nell'altro, e anche il pubblico ha cominciato a si diverte a sentire queste novità che vengono fuori dalla fusione appunto di tanti generi. Beh, ma è una cosa che comunque tu hai sempre fatto, sì, anche quando scrivevi le colonne sonore, no? Perché sì, colonne sonore poi ti richiede una conoscenza di tutto, dicevo che chi fa questo deve fare dal minuetto fino al pezzo rock a seconda di quello che è la storia, naturalmente filtrandolo attraverso il suo modo di esprimersi, il suo stile, se no non ci sarebbe nulla. Allora Franco, io direi di ascoltare subito un brano da questo nuovo album intitolato Onda Nuova, quindi con la collaborazione di Fabrizio Bosso, Jimmy Heslip, il bassista di Yellow Jackets. Yellow Jack, bravo, Yellow Jackets. Non mi ricordo mai. Jeff Lorber, formidabile tastierista, pianista, Eric Marienthal al sax tenore. Ma questi hanno collaborato con tutti, tra le star pop, il jazz, sono dovunque, guarda. Dappertutto, ma è bello perché li troviamo anche in una produzione italo-americana. Ma come per questa Vinci e Pofarbacco. Franco Michalizzi da Onda Nuova, il brano si intitola Pao Pao. Oggi parliamo di fusion, approfittando della presenza del maestro Franco Michalizzi qui nel Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Pao Pao, una composizione originale che ci porta con un passo in Brasile, ma ci fa fare anche il giro del mondo. Sì, ma ti voglio dire che quando ho cominciato ho deciso che voglio fare una cosa che mi piace, cioè non voglio più lavorare secondo quello che dicono gli altri, fammi un arrangiamento, fammi una cosa, voglio fare una cosa che sento io, che nasce dal profondo. E allora ho cominciato a fare dei pezzi, ho fatto una cartellina sul computer e come la chiamo c'ho scritto chi sono, punto interrogativo, perché alla fine volevo capire l'essenza, e ho detto ma io devo mettere assieme i vari strati delle esperienze musicali che ho avuto nella vita, man mano la conoscenza prima della musica jazz, poi della musica fusion appunto, poi della musica brasiliana, della musica sudamericana, della musica africana, cioè tutte queste cose hanno stratificato, no, culturalmente, hanno fatto degli strati dentro di me. Il risultato, cioè come ho reagito io a queste cose, che come mi hanno stimolato, e su questo mi voglio basare. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma è un po' un genere vecchio, un genere... Il genere è sempre nuovo, perché dice quello che penso oggi, non quello che pensavo 20 anni fa. Quindi la novità sta nel mio stato d'animo di oggi mentre lo facevo. Se si rifà degli schemi che possono essere di fusion, non lo so, guarda, non so che dirti, e sono io comunque. Senti, come hai collaborato con questi ragazzacci americani? Ti sei spostato in California, li hai fatti venire in Italia? No, abbiamo fatto telematicamente da globalizzazione, cioè nel senso che prima ci siamo incontrati in Italia, specialmente con Jeff Lorber, abbiamo parlato a lungo, eccetera, e poi dopo io ho mandato dei miei file e la notte la passavo comunicando con loro, io gli mandavo il file di una cosa, lui mi mandava quello che aveva fatto, io dicevo, no, forse sarebbe meglio fare più così con la, e con tutti, guarda, è stato questo tipo di, e facevo l'alba perché per loro è una differenza oraria. Senti, e hai lavorato molto sul computer o hai scritto le partiture a mano come facevi negli anni 70? Ho dovuto scrivere anche partiture a mano mandandole lontano, loro dovevano bene o male sentire quello che avevo realizzato, ma anche poi interpretare e leggere e capire quello che dovevano fare. Sono stati bravissimi, formidabili professionisti, c'è certo stata una comunicazione incredibile, ma proprio eravamo migliaia di chilometri lontani lontani, ma veramente eravamo molto tutti vicini, in quella stanza. Bene, io seguo Jeff Lorber da sempre, dai primi album della metà degli anni 70, continua a fare musica molto piacevole, molto piacevole, quella di Jeff Lorber, che qui ascoltiamo in Soul Food con la voce di Naila. Soundcheck, il suono della musica. È un piacere ritrovare al Soundcheck di Radio 24 il maestro Franco Michalizzi, sempre in attività, sempre attento ai musicisti di talento, e infatti ha realizzato da pochissimo questo album intitolato Onda Nuova 1, quindi probabilmente il primo capitolo, te ne auguro altri 100, mio caro Franco. Sto lavorando al secondo capitolo. E ha coinvolto in studio il bravissimo Fabrizio Bosso, Jimmy Heslip al basso elettrico, Jeff Lorber, Eric Marienthal. Posso dire una parola, Fabrizio? Certamente, visto che è un nostro conterraneo, un italiano, insomma, siamo un po' patrioti. Devo dire che sicuramente è formidabile, è uno dei, per me è uno dei maggiori jazzisti qui in Italia. Ha una capacità incredibile, di capisce con una rapidità del fulmine, ha una tecnica formidabile, ma ha un'anima formidabile, e lo voglio ringraziare. La cosa complicata è riuscire a coinvolgerlo, perché è sempre impegnatissimo. Fabrizio ha un'agenda serrata. Guarda, l'ho già chiamato per il prossimo, gli ho detto sentiamoci a fine mese, perché adesso sto in guaia. A fine mese ci mettiamo. Ma guarda, lui viene e ti posso garantire che in 3 ore è capace. Ha fatto tutto. Tutto, guarda, è formidabile. Sì, io volevo chiedere sulla questione della collaborazione con Quentin Tarantino, come è andata, come era successo, diciamo, come è avvenuto l'incontro. Guarda, Quentin Tarantino io ancora lo devo incontrare, quindi mettici questo. Lui ha preso il brano da Italia a Mano Armata, che era un brano piuttosto di un inseguimento, era il tema poi del film, e lo ha inserito nel finale di Grindhouse. Questo finale è incredibile, il film è formidabile, è fatto benissimo, è pulp, certamente, la pulp music mia con la pulp cinema suo, e funziona. E mi ha detto, guarda che Tarantino mi ha visto, ha preso, ha chiesto i diritti per utilizzare, dico, ma va, davvero? Sì, mi fa piacere, sono andato al cinema a vederlo, formidabile, perché ha fatto una scelta precisa. Questo pezzo parte proprio, lui sceglie i finali, con me fa i finali dei film, e gli dice bene, perché funzionano. Parte sto pezzo, parte proprio si compie il destino del film benissimo. Quindi oramai benissimo. Si è affezionato alla tua musica. Sì, l'ha un po' pompato. Ha fatto un master negli anni 70. Però è affezionato quindi, perché anche per Django Unchained ha utilizzato lo stesso, il suo materiale. Guarda, sta cercando, perché credo sia una decisione dell'ultimo momento, quella di mettere Trinità, perché aveva fatto tutto, aveva scelto un sacco di pezzi, addirittura Morricone gli aveva fatto un pezzo ad hoc cantato, credo da Elisa, però gli mancava il finale, e attraverso vari editori, perché si è servito di vari editori anche stranieri, è arrivato, ci guarda, tanti lo vorrebbe Trinità, beh benissimo, siete d'accordo, facciamolo con piacere, fantastico. E devo dire anche qui lui ha montato la scena sulla musica, perché se tu hai visto Django e ti ricordi, a un certo punto c'è tutta la parte iniziale di Trinità col fischio, poi parte il cantato e c'è una piccola transazione tra quello e il cantato, e c'è l'esplosione della villa, lui ha tagliato il pezzo lì, ha fatto l'esplosione e poi è partito col cantato subito dopo. Cioè, lo me ne accorgo io, perché... Hai capito perché bisogna comporre sempre musica di qualità? Perché magari un giorno, anche dopo 20, 30, 40 anni, ti chiama il grande regista americano e utilizza la tua musica. Però, 45 anni, cioè 45 anni. 45 pensa anni. A te, è Franco, stato il mio primo film, guarda. Però la cosa bella, e la cosa che mi piace di te, è che continui a fare musica. Sicuro. Non ti sei fermato. Se no muoio. Allora, ascoltiamo questo nuovo brano intitolato Encantado, e qui c'è la partecipazione anche di una bella voce italiana. Sì, e c'è Gio Marinuzzi che ha fatto il testo e che ha cantato assieme a Cristiana Polegri. Eccoli qui. Io dimentico sempre i nomi, stavolta sono perfetto. Sì. Encantado, brano scritto dal maestro Franco Michalizzi, nostro ospite, con la partecipazione della bravissima Giovanna Marinuzzi, anche lei grande appassionata di Brasile. Io me la ricordo, che dire, 30 anni fa, quando girava per i club romani proponendo tutto il songbook dei grandi autori brasiliani. Quindi un abbraccio a Giovanna Marinuzzi. Nuovo album di Franco Michalizzi si intitola Onda Nuova, lo possiamo inquadrare, ecco, dovendolo sistemare in un negozio di dischi a Los Angeles, lo andremo a posizionare fra gli scaffali dello smooth jazz. Smooth jazz, lo, mi lo piace, sai, no? Sì, sì, sì. E quindi musica che in qualche modo ci può accompagnare nell'arco della nostra giornata, certo. E fammi usare un termine che però non è dispregiativo. No. Musica che può arredare i nostri ambienti. No, lo sai? Arredi il nostro cuore, il nostro cervello pure. No, lo smooth jazz è quello più richiesto in sì, California, soprattutto sì. Nei grandi hotel, negli aeroporti. Io penso che ci dica, metti in macchina nel lettore, lo lasci lì e lo dimentichi lì, ogni volta che metti in moto lui parte e lo lasci, ma si lascia. Allora, oggi parliamo, Franco, approfittando della tua presenza, proprio di fusion, quindi commistioni di generi. Fra i grandi maestri del genere che come te continua a fare ottima musica, c'è un bassista che nasce come contrabbassista di jazz, poi incontra Chick Corea e col quale mette su una band strepitosa per il genere, Return to Forever, quindi parliamo degli anni 70, ma più tardi li ascolteremo proprio in un brano originale del periodo. Questo signore si chiama Stanley Clark, uno degli innovatori del basso elettrico, che realizza, per celebrare il suo tributo al compianto George Duke, proprio una composizione di George Duke intitolata Brazilian Love Affair, qui al soundcheck di Radio 24. In the morning, on the beach there. People gather to meet the sunshine. With open arms, reaching for heaven. With open hearts. Ooh. Sound check. Il suono della musica. Anche qui la fiesta interlude by Gerald Albright, polistrumentista californiano, anche lui inserito fra la fusion negli scaffali dello smooth jazz, presente al soundcheck con il nostro ospite Franco Michalizzi, che ci dà occasione di poter parlare di fusion. E Franco ha realizzato questo disco, lo ripeto, si intitola Onda Nuova, naturalmente Onda Nuova 1, primo volume, naturalmente una produzione che si è riuscito a realizzare. Perché ha anche dei figli che fanno i musicisti. Certamente. E tuo figlio Cristiano Michalizzi è uno dei batteristi più richiesti in Italia. La storia è che una volta lui era il figlio del maestro Michalizzi, ormai io sono il papà. Il ma lei Cristiano. È il papà di Cristiano Michalizzi, è bellissimo, va bene, si succede sempre. Senti, come funziona la collaborazione con tuo figlio? Che è un rompiscatole, guarda. Più di te? Più di me, riuscito a fregarmi, perché io non pensavo di essere un pignolo, poi me l'hanno detto in faccia, lei è un pignolo, rompiscatole, ho capito, mi sono fatto esaminare, era vero, ma è arrivato lui che è più pignolo di me e siamo rovinati, guarda, mi boccia tutto, ma una virgoletta, sei nasposta una cosa di un millimetro, ma si sente, va spostato un millimetro, va bene. Quindi, bravissimo, l'album bravissimo. È stato realizzato nel vostro studio, voi avete uno studio a casa. Certo, esattamente, e poi lui soprattutto ha fatto una pulizia perfetta di tutto e ha un gusto del suono incredibile. Questi sono suoni, guarda, che devono dare un senso di grandissima naturalezza, sono pochissimo ritoccati, quasi niente, quindi trasparenza e grande calore del suono. E infatti non sembra un disco prodotto in Italia. Esatto, esatto, non abbiamo echi, cose, niente, nulla. Poi è stato masterizzato alla fine per dare un'unità di suono, ma cosettine, guarda, da ridere, proprio niente di particolare. Senti, e questo lo devo a Cristiano, perché della sua opinione il suo gusto di non usare cose troppo inguaiate, troppo cucina, lasciarlo come il prodotto. Senti, avete intenzione Dimmi. Di portare in giro dal vivo, di fare concerti insieme, magari con Cristiano e alcuni di questi meravigliosi avrei musicisti. Voluto farlo, è complicato. Guarda, Jeff mi ha detto, Franco, we love to play with Jeff you. Lorber. Lorber. Quindi appena gli ho accennato, ha detto, siamo pronti a venire con piacere, però non è facile, in un'Italia attuale dove tutto è difficile, persino la musica dal vivo sta entrando in crisi, naturalmente ha dei costi, ha delle situazioni complicate per gli impegni loro. Scusa, no. Chiama Quentin Tarantino, ti fai ospitare negli Stati Uniti e ti fai una bella tournée lì. Potrebbe essere. No, io vado in giro con la Big Bubbling Band, come sai, dove faccio i pezzi dei polizieschi, e lì riesco a fare diversi concerti e c'ho un bel gruppo di appassionati che mi seguono e sono contento anche di questo. Bene, allora Franco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, noi siamo pronti per mettere in onda proprio il brano che dà il titolo a questa bella produzione, Onda Nuova, e ci risentiamo sempre qui su Radio 24 per la seconda parte del soundcheck di oggi, subito dopo l'informazione, seconda parte con i grandi maestri della Fusion. Sì, tutta dedicata alla Fusion storica, possiamo dire. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie Franco. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del nostro soundcheck, dopo aver salutato con affetto il maestro Franco Michalizzi, che ci ha presentato la sua ultima fatica discografica, una fatica discografica che lo ha portato nuovamente a scoprire il piacere della fusion. E infatti questa puntata la stiamo dedicando alla fusione degli stili musicali, ovvero quando i musicisti di jazz intorno alla fine degli anni 60 hanno incontrato le sonorità più elettroniche. È un maestro del genere è sempre stato un musicista molto curioso nella vita e nella musica, un musicista che ha cambiato il corso della musica jazz per 4-5 volte, e quindi vi stiamo parlando di Miles Davis, che praticamente era stufo del suono tipico del jazz e quindi anche per motivi commerciali, lo devo dire mio caro Francesco, Miles Davis scopre il piacere di incontrare i giovani musicisti con i quali dar vita a delle nuove sonorità, stimolando poi la creatività di tutti i musicisti che hanno seguito il suo percorso, da Joe Zawinul a Herbie Hancock, George Duke, ma anche Keith Jarrett, che partecipò alle prime registrazioni suonando il Rhodes Fender insieme a Miles Davis. Sì, come non ricordare il mitico concerto all'Isola di Wight, Call It Anything, quando gli chiesero che cosa avete suonato finora, e Miles Davis disse chiamatelo come vi pare. Sì, chiamatelo, io ricordo, perché c'è anche un filmato bellissimo, il concerto su DVD, molto interessante, perché lì nell'Isola di Wight con tutte le rock band a un certo punto appare sul palco Miles Davis in compagnia di Chick Corea e Keith Jarrett suonava proprio una tastierina, Dave Holland al contrabbasso, Jacques Dejonet alla batteria, Ayrton Moreira alle percussioni, e naturalmente hanno anche raccontato che salirono su quel palco in condizioni pessime, e non aggiungo altro. E si nota anche, e tra l'altro improvvisando mezz'ora di concerto, lasciando a bocca aperta gli appassionati di rock che avevano raggiunto la location per seguire i loro beniamini. Fatto sta che Miles Davis è stato uno dei primi, intorno alla fine degli anni 60, insieme a giovani musicisti, giovani talenti come Herbie Hancock, addirittura Ron Carter, che suonava il basso elettrico, a creare un album intitolato Miles in the Sky un nuovo percorso sonoro. E curioso com'era, addirittura nei primi anni 90, questa è la leggenda metropolitana, Miles Davis, affacciandosi alla finestra di un appartamento a New York, sente che dalla strada arrivano delle sonorità nuove, sonorità tipicamente hip hop. Allora, che cosa gli viene in mente? Di produrre questa nuova musica, cioè la curiosità lo prende talmente tanto che lui chiama il suo producer e gli chiede di presentargli, sì, Russell Simmons. Sì, e gli chiede di presentargli qualcuno che possa aiutarlo in questo percorso, un appassionato, un musicista, un producer in grado di produrre un album quasi hip hop. Diciamo. E quindi Russell Simmons mette in contatto il genio creativo del jazz Miles Davis con come dire, la forza ritmica dell'hip hop creata da un giovane musicista, un giovane rapper chiamato Easy Mo Bee. Sì, un producer e un musicista, oltre che un DJ, che è un astro nascente in quel periodo del movimento hip hop R&B. Miles Davis si rivolge appunto a lui per creare questo nuovo suono dal punto di vista di Miles, ovviamente. E quindi Easy Mo Bee e Miles Davis si chiudono in studio di registrazione per regalare alla Warner Bros. Un album intitolato Doo Bop, che porterà anche alla Warner Bros. Un bel Grammy Award come migliore performance strumentale R&B, quindi non parliamo di jazz. Sì, ormai il jazz per Miles Davis era praticamente sepolto. Morto e sepolto. Sì. Comunque, eccolo qui, Easy Mo Bee, in compagnia di Miles Davis con la sua tromba, che si diverte a improvvisare su questa ritmica tipicamente hip-hop, con tanto di rap proposto da Easy Mo Bee. Il brano famosissimo si intitola The Doo Bop Song. Miles Davis, Easy Mo Bee al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Exciting of the new sounds that have been added to American music in the past few years is unquestionably the stirring, stimulating staccato rhythms of the Se nei primi anni 90 il maestro Miles Davis incontra un esperto di hip hop come Easy Mo Bee, la stessa cosa più o meno la fa il suo discepolo Herbie Hancock, che già aveva ottenuto grandissimi successi con la sua sperimentazione, la sua visione a 360 gradi della musica, la sperimentazione fra le strutture, l'improvvisazione jazz e le sonorità più vicine al versante rock. Herbie Hancock nel 2002 realizza questo nuovo capitolo della sua incredibile carriera con un album intitolato Future to Future e incontra il disc jockey inglese Rob Swift. Sì, è un altro esperimento particolare, nel senso che in questi casi ovviamente i critici puristi di jazz ti stroncano, come successe già a Miles Davis. Beh, già negli anni 70, quando iniziò anche Herbie Hancock, sì, sì, con gli Headhunters e poi qualche anno dopo, nei primi anni 80, che fece Future Shock, lo ricordi? Un brano terribile. Sì, sì, ovviamente i più appassionati al genere jazz non saranno sicuramente ovviamente dalla tua parte, però dall'altro lato riesci anche ad aprire dei settori, dei, un percorso che magari ancora non è stato del tutto esplorato. È un'operazione che ha ovviamente dei pro e dei contro, i contro principali magari dal punto di vista di un musicista come Herbie Hancock è il rischio di fallire, però per un musicista come lui è quasi impossibile fallire. Impossibile, anzi ha vinto, perché poi è considerato uno dei musicisti più ricchi del mondo per aver prodotto album di successo dall'inizio della carriera fino ad oggi, ma anche colonne sonore importanti, e soprattutto aver lasciato una discografia spaventosa, infinita, come dicevi tu, attraversando vari stili e vari generi musicali. Allora, Herbie Hancock qui lo abbiamo ascoltato proprio in compagnia del disc jockey Rob Swift dall'album Future to Future, ma c'erano anche alla batteria in questo groove portentoso il maestro Jacques Dejonet e Bill Oswell al basso elettrico. Un album molto interessante con la partecipazione di altre star come Wayne Shorter al soprano oppure una star della vocalità nera di sempre, Chaka Khan. E dal sound di Herbie Hancock passiamo a un altro maestro della black music, ma un maestro sperimentatore, perché in giovane età si ritrovò a sostituire Joe Zawinul nel quintetto di Julian Conobal Adderley, per poi approdare nella super band di Frank Zappa, altro visionario e un altro musicista che ha fatto tanto per la fusion di tutti i tempi. Sì, George Duke è uno dei punti di riferimento sotto questo settore, possiamo dire. È uno dei più grandi pionieri, anche perché è uno dei primi a utilizzare il sintetizzatore. Sì, ha utilizzato di tutto, sintetizzatori, mini Moog, campionatori, e poi aveva un bellissimo studio di registrazione, aveva, perché purtroppo è scomparso poco più di un anno fa. Allora, per ricordare anche il lavoro di George Duke, direi di presentare The Black Messiah, che non è quello di D'Angelo, ma è una sua composizione originale, qui ripresa dal vivo in più o meno una decina di anni fa, e al contrabbasso per questo groove portentoso c'è Christian McBride. George Duke al soundcheck con The Black Messiah. Soundcheck, il suono della musica. E oggi il Soundcheck di Radio 24 celebra la fusion music, genere musicale, come vi abbiamo già raccontato, nato dall'incontro dei musicisti di jazz con le sonorità tipiche del rock, quindi la strumentazione elettronica. Vi abbiamo raccontato delle sperimentazioni di Miles Davis, quelle di Herbie Hancock, abbiamo ascoltato George Duke, ma ci sono anche altri musicisti meno conosciuti ma altrettanto importanti per le sorti della musica contemporanea. E fra questi io vorrei parlarvi e farvi ascoltare qualcosa del maestro Don Grolnick. Conosci? Non benissimo, devo dire che è una delle lacune che devo assolutamente colmare. Bene, ti farò ascoltare la discografia completa di Don Grolnick, musicista conosciuto anche nell'ambiente pop per aver lavorato con artisti famosi come James Taylor. È stato per anni il pianista di James Taylor e anche l'arrangiatore dei grandi classici di James Taylor. Poi ha lavorato con Linda Ronstadt, ha lavorato con Roberta Flack, con Carly Simon e anche con altri maestri della fusion music come David Sanborn, Billy Cobham, naturalmente con Marcus Miller, e nelle sue band ha sempre avuto musicisti fortissimi, e fra questi anche il sassofonista Michael Brecker. Pensa che da questo album importantissimo del 1985 molti giovani sassofonisti hanno tirato giù le partiture degli assoli di Michael Brecker Whitaker, imparandole poi a memoria. Quindi un album importante per tutti i musicisti che vorrei presentarvi, lo ripeto, si intitola Hearts and Numbers, da non perdere, io lo ascolto ancora oggi, attualissimo. Ma ce l'hai, me lo presti? No, non lo presto, te lo faccio ascoltare, poi se vuoi te lo compri, te lo scarichi da iTunes. Ok, va bene. Va bene, eccolo qui, Don Grolnick con The Four Sleepers al Soundcheck. Un album importantissimo per la fusion music, Hearts and Numbers di Don Grolnick. Il brano che vi abbiamo presentato qui al nostro soundcheck si intitolava The Four Sleepers, con Don Grolnick, sempre musicisti eccellenti, e fra questi in moltissime occasioni non mancavano i Brecker Brothers. Ecco, i Brecker Brothers, Michael Brecker sassofonista tenore, Randy Brecker trombettista, dagli anni 70 in poi insieme erano considerati una delle sezioni più importanti della storia della musica. Erano impeccabili, tutte e due con un grandissimo suono, tutte e due tecnicamente preparatissimi, e ancora oggi questo merito viene riconosciuto per esempio da un musicista della nuova generazione come Joshua Redman, che proprio qualche giorno fa ha twittato che non basterebbero 1 milione di ore di studio per raggiungere la tecnica di Michael Brecker. Sì, dei pezzi di storia che però spesso non vengono del tutto ricordati magari da chi non è proprio un professionista del settore, come ad esempio Joshua Redman li può ricordare ovviamente anche chiunque sia uno studioso degli strumenti, però spesso vengono un po' tralasciati dai programmi anche musicali. Invece noi non lo facciamo, perché amiamo il sound dei Brecker Brothers e amiamo naturalmente il talento dei grandi musicisti, e dobbiamo anche considerare che i Brecker Brothers hanno attraversato un periodo che va proprio dall'inizio degli anni 70 fino alla scomparsa di Michael Brecker avvenuta nel 2007. Randy continua a fare i concerti anche con un tributo all'opera dei Brecker Brothers. Hanno suonato con tutti, sì, anche con Frank Zappa. Sì, Frank Zappa possiamo dire un comune denominatore di quel periodo. Molti musicisti di jazz originariamente sono passati per lui, ed è, rimane appunto uno dei punti di riferimento di quel periodo fusion, in cui tutti i generi iniziavano a mischiarsi, mescolarsi, accoppiarsi. Eh sì, e Michael Brecker come sassofonista è stato anche uno dei primi a utilizzare l'elettronica sul sax tenore. Utilizzava molto spesso effetti tipicamente chitarristici come il wah-wah, ed è stato anche lo sperimentatore di quello strumento che si chiama Steinerphone, ovvero una sorta di uno strumento a fiato elettrificato che quindi poteva utilizzare sonorità diverse con un'estensione incredibile. Allora ascoltiamo i Brecker Brothers, però da un brano con un brano con l'andazzo reggae addirittura, molto divertente, e c'è anche Randy Brecker che canta. Non è un eccellente cantante, però viene fuori il carisma musicale dei Brecker Brothers qui al soundcheck con That's All There Is To It. Soundcheck, il suono della musica. We'll be right back. credo, mio caro Francesco, di aver ascoltato quest'album di Chick Corea con i suoi Return to Forever migliaia di volte, e l'ho rifatto proprio in occasione della preparazione di questa puntata dedicata alla fusion, e quindi selezionando questo brano intitolato Day Ride, lo ripeto, da un album del 1975 intitolato No Mystery per Return to Forever, con Chick Corea al pianoforte, tastiere, sintetizzatori, mini Moog di quel periodo, ma anche Al Di Meola alla chitarra, Stanley Clark al basso elettrico e al contrabbasso, e il formidabile Lenny White alla batteria. Siamo quasi in chiusura per questa puntata dedicata alla fusion. In questa seconda parte abbiamo ascoltato i grandi maestri del genere, bianchi e neri. Sì, perché comunque la fusion è stata un punto di contatto, possiamo dire, fra tutti i tipi di musica, quindi ovviamente fra tutti i tipi di colori e di esseri umani. E ancora oggi fa scuola, perché per esempio un artista di oggi come Robert Glasper, che ha vinto i Grammy Award nell'R&B, è comunque un musicista fusion, perché incorpora nella sua musica vari elementi che vanno dalle strutture, l'improvvisazione jazz, fino a elementi di pop, R&B e così via. Quindi ce n'è per tutti i gusti, c'è anche fusion più vicina al versante della world music, ma insomma potremmo dedicare centinaia di puntate al genere. Chiunque oggi vuole evolversi e fare sperimentazione non può sottrarsi al piacere della fusione degli stili e della contaminazione. Sì, diciamo che la fusion ormai è diventata un po' la categoria nella quale tu puoi inserire quel tipo di musica, che non ha una sola categoria, ma ne ha diverse. È vero. Allora siamo agli sgoccioli, mio caro Francesco, bellissima puntata, mi sono molto divertito, ho fatto un salto nel passato, spero anche che a molti appassionati abbia fatto piacere ascoltare il repertorio che abbiamo selezionato per loro oggi, naturalmente con molte lacune, perché potevamo proporre Yellow Jackets, potevamo proporre ma quanti ce ne sono, Spyro Gyra, insomma altre band, magari lo rifaremo, faremo un secondo appuntamento. Sì, potevamo fare 200 ore di musica e non solo non per trattare la fine, è tutto. Però direi domani, nella prima parte, quella che inizierà alle 15:30, direi di fare un salto ai giorni nostri e quindi suonare qualcosa di contemporaneo. Sì, del una genere. Fusion più contemporanea, più moderna. Lo faremo, ma chiudiamo in bellezza. Sì, chiudiamo con un pezzo di storia, un altro punto di riferimento, i Weather Report. Oh, Weather Report per Joe Zawinul e Wayne Shorter, proprio nel periodo con presente nella band quel colosso di musicista pazzo, furioso come un cavallo, chiamato Jaco Pastorius con il suo basso elettrico. E il brano con il quale noi vi vogliamo salutare, proprio da Heavy Weather del 1977, come dicevi tu, un pezzo di storia e un classico della musica contemporanea, Birdland. Sì, e penso che tutti abbiano almeno un disco dei Weather Report, chiunque acquistava LP in quel periodo ce l'ha, ce l'ho anch'io che non sono di quel periodo, quindi. Non so se chi compra Cristiano Malgioglio ha anche i Weather Report. Ma secondo me per caso. Io per esempio però Cristiano Malgioglio ce l'ho nella mia discografia, per dirne una, no? Allora, salutiamo Cristiano Malgioglio, ma passiamo ai Weather Report per chiudere in bellezza con Birdland. Noi ci risentiamo domani alle 15:30, poi seconda parte più jazz, quella delle 19:15. A tutti voi buona serata da Gigi Telesporo e da Francesco Tromba.